E benvenuti, questa sera siamo ospiti del Politecnico di Torino e anche del Comune di Modovì che tiene acceso il riscaldamento. Come avete saputo, la dottoressa Elisa Stanstrenga non è potuta venire e noi ci siamo rivolti ad un validissimo formatore che si occupa del lavoro di collaborare con le aziende, con le scuole, con gli insegnanti, conosce i ragazzi e fra le sue competenze c'è proprio il discorso delle emozioni. Quindi ve lo presento, si chiama Cristiano Di Baudo e vi lascio la parola. Buona serata. Allora, mi sentite? Sì. Allora, buonasera a tutti. Tutti anche fino in fondo mi sentite? Sì. Se non mi sentite più avvisatemi. Va bene, innanzitutto buonasera. Ho la fortuna di avere soltanto 30 km di distanza da questo posto bellissimo, invece la dottoressa che doveva venire questa sera, evidentemente queste nevicate che arrivano ogni 30 anni devono essere state un po' di ostacolo. Allora, io mi rendo subito, come si dice tra i miei colleghi, vulnerabile. Cioè, non sono un esperto di tutto quello che riguarda il mondo dei bambini. Lo dico perché, secondo me, bisogna essere chiari per capire chi si ha di fronte, quello che ci dirà, che origine ha e di che cosa, quali sono le sue competenze. Però da anni lavoro con le persone. Lavoro con le persone su tutte quelle che sono le aree legate alle competenze che vengono definite in gergo competenze soft. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una parte di strumenti, di conoscenze che usiamo nel nostro lavoro, che sono strumenti che impariamo nel corso della scuola, competenze tecniche, e poi ne abbiamo tutta un'altra parte che sono legate invece alla nostra persona, alla capacità di entrare in relazione con gli altri, di vivere e gestire le nostre emozioni, eccetera, eccetera, eccetera. E così mi capita molto spesso di lavorare sul tema delle emozioni e dell'aggressività, ma con il mondo degli adulti. Così quando i nostri amici un paio di giorni fa, un regalino di quelli giusti, mi telefonano e mi dicono abbiamo un problema, Houston abbiamo un problema, ho pensato che il lavoro che tutti i giorni faccio con gli adulti sul tema delle emozioni forse poteva essere utilizzato in questo contesto. Prima di partire però volevo chiedervi una cosa. Sicuramente ciascuno di voi è venuto qua con dei dubbi su questo argomento. Di solito le domande si fanno alla fine. Io vi chiederei, ce li abbiamo i fogli pronti, vi chiederei di fare una cosa prima di iniziare. Vi verrà distribuito questo foglio, ok? Nel quadratone in cui avete, in questo quadrato in cui c'è il numero 1, scrivetevi una domanda che voi per adesso conservate lì. In merito all'argomento, ovvero aggressività e condotte prepotenti. Allora, in merito alle relazioni che voi avete con i vostri figli, con i bambini, ma anche con gli altri adulti, una domanda che vorreste, un dubbio che vorreste risolvere nell'arco di questa serata, una perla che vorreste portarvi via, qualcosa di utile. Vi lascerei adesso un minuto e mezzo, un minuto, in cui ciascuno di voi si scrive questa domanda e poi chiude il foglio e lo lascia lì e partecipa serenamente a questa chiacchierata. Mi sono spiegato per tutti bene? Sì? Allora, nel quadratone, sotto il quadratone numero 1, potete scrivervi la vostra domanda sul aggressività e condotte prepotenti. Che cosa è che io non so, che non conosco, che vorrei portarmi via in più da questa serata in merito a questo argomento? Una domanda per fare la domanda. Thank you. Allora, avete scritto? Mai nessuno di voi è stato vittima di uno sfogo, di aggressività da parte di qualcuno? Mai nessuno tra di voi è stato vittima dello sfogo, dell'aggressività di un bambino? Io ho organizzato insieme a mia moglie una festa di compleanno la scorsa settimana in cui c'erano 8 bambini in casa. E quindi, ecco, una cosa che non vi ho detto è che ho 2 figli, uno di 4 e uno di 8 anni, e quindi forse siamo più o meno sulla stessa barca. Allora, io inizierei la chiacchierata, vi chiederei adesso di riporre la vostra domanda in questo, nel vostro foglio, e comincerei con una frase che mi ha detto, un po' sorpresa, circa 3 o 4 mesi fa, stavo facendo un corso in una barca, in Emilia Romagna, e a un certo punto un signore, stavamo parlando dei temi della comunicazione, delle emozioni, eccetera, parlavamo di problemi, era il momento in cui parlavamo di risolvere i problemi, e un signore mi alza la mano e mi dice, guarda, io ho una perla per lei, e mi dice questa frase qua, più o meno, poi io l'ho anche scritta su Facebook perché mi è piaciuta talmente tanto, fondamentalmente diceva più o meno così, dice, quando un bambino si sente amato, non ha bisogno di fare un gran fracasso per far sentire agli adulti che c'è. Allora, da dove partirei io questa sera? Partirei da un altro principio, che è questo. Prima di riflettere sulla rabbia dei bambini, e quindi di riflettere sulla rabbia dei più piccoli, vorrei che ciascuno di noi stasera si mettesse un po' come di fronte a uno specchio, forte di questo principio, che dice più o meno così, quello che sei grida più forte di quello che dici. Probabilmente i nostri figli, uno degli strumenti attraverso i quali apprendono la modalità di poter esprimere le emozioni, il ruolo delle emozioni all'interno della propria vita, è proprio osservandoci. E quindi prima di arrivare all'emozione e alla rabbia, vi faccio un paio di premesse. Quindi lavoriamo un pochettino su di noi. Probabilmente da un punto di vista degli argomenti che tratteremo questa sera, uso una frase di Einstein che diceva più o meno così. Diceva, apprendere è esperienza, tutto il resto è informazione. In che cosa è cambiata la nostra società nel corso degli ultimi 30-40 anni? Fino a 30-40 anni fa, riuscite a vedere un po'? Sì, un pochino. Così va bene? Ok, sarà via di mezzo. Allora, nel giro di 30-40 anni, che cosa è cambiato? È cambiato questo. Fino a 30-40 anni fa, chi aveva in mano la conoscenza aveva in mano il potere. Se voi pensate, tutti i modelli che, anche di retribuzione all'interno del nostro lavoro, sono stati studiati per premiare le persone che hanno conoscenza. E fino a 30-40 anni fa, la conoscenza, l'accesso alla conoscenza, se voi pensate come voi facevate le ricerche, quelli della mia generazione, io ho 34-35 quasi anni, facevamo le ricerche su dei volumi che erano già vecchi, di 10 anni, e poi dopo ancora più vecchi, eccetera, eccetera, quindi i dati su cui lavoravamo erano sempre dati vecchi. Oggi che cosa succede? Chiunque può avere accesso alla conoscenza. Qualunque tra le informazioni che io vi dirò questa sera, domani mattina, ciascuno di voi andando a casa sul web, può cliccare qualunque di questi argomenti e trovare tutto il materiale che vuole. Quindi la prima di queste due premesse, che è il mio lavoro, il lavoro che faccio io tutti i giorni, è questa. La vera trasformazione che si ha oggi non è nel conoscere degli argomenti, perché probabilmente noi oggi tratteremo degli argomenti che già conoscete. Quello che fa la differenza oggi è usare gli argomenti che conosciamo. Vi faccio un esempio. Lo sappiamo tutti che non bisogna arrabbiarci con le persone, perché se facciamo uno sfogo di rabbia la comunicazione si complica. Però non ci riusciamo. Come mai? Lo sappiamo tutti che se trattiamo una persona in un certo modo, invece di entrare in una relazione positiva, o di se abbiamo un gruppo di collaboratori all'interno del nostro ufficio li trattiamo male, avremo meno risultati. Lo sappiamo tutti che un bambino, se gli urli in faccia, non funziona. Ma non riusciamo. E quindi la prima premessa è questa, non focalizzatevi sui contenuti, ma su che cosa vi dicono personalmente questi contenuti. La seconda premessa è questa. Una volta una persona mi ha detto che nella vita lo spettacolo e la prova generale sono la stessa cosa. per decidere quale strada prendere, ogni giorno noi abbiamo una sola possibilità. Con il senno di poi si fanno tantissime cose, però purtroppo non abbiamo la possibilità. E quindi partiamo da questo presupposto, che ognuno di noi fa il meglio che può con ciò che ha a disposizione. Una volta una persona mi dice, sai, la prima volta nella vita si ha una volta soltanto. Se potessimo rifare le cose, probabilmente avremmo più possibilità. Partendo da qui, io ragiono su quelle che sono due nature dell'essere umano. L'essere umano fondamentalmente ha due nature contrapposte. Qualche mese fa, cioè ormai circa 6 mesi fa, ho avuto la fortuna di lavorare con un astrofisico di Roma che mi ha spiegato un concetto molto semplice. Lui mi ha detto, se tu prendi una pallina e la metti in una buca, dove si va a collocare la pallina? Dove si va a mettere? Cioè, si va a mettere nel punto più basso. E lui mi dice, quello lì secondo te è il punto di maggior dispendio energetico o di minore dispendio energetico? E ripeto, è un logico di meno. Questo concetto in fisica, mi ha detto lui, io mi fido, si chiama buca di potenziale. Ora io dico, se io prendo un qualunque figlio, 12, 13, 15 anni, 6 anni, e lo prendo in casa e gli do qualcosa da fare, che cosa fa lui? Sicuramente cercherà la strada con minore dispendio energetico, probabilmente sul divano, per cercare di consumare poca energia. Questa fa parte, questa è una parte di noi umani, fa parte della nostra natura, cercare di fare le cose con il minor dispendio energetico possibile. Qualche tempo fa ho cambiato il telefonino, avevo un PIN molto difficile, l'ho cambiato, ho cambiato il PIN, molto più semplice, ma io continuo a fare il vecchio. Perché una parte della nostra natura è quella di fare le cose per abitudine. È un po' come, sapete che io poi spiego agli adulti attraverso i concetti, cerco di spiegarli attraverso le favole. 4 anni fa ho scritto questa favola, che si intitola Le rane che si credevano pesci, no? E per esprimere questo concetto ho pensato al fatto che noi un po' siamo un po' come delle rane che viviamo in un grande stagno e stiamo bene perché c'è il cibo in abbondanza, non abbiamo niente che ci spinge a scoprire l'altra natura, che è quella che ci permetterebbe anche di poter vivere sulla terraferma. Quindi da una parte noi cerchiamo di non sprecare energia, usarne il meno possibile per fare ciò di cui abbiamo bisogno. Dall'altra parte ne abbiamo un'altra, che è quella che ci porta a crescere, a divenire ciò che siamo. Se noi non cresciamo, diventiamo adulti, cresciamo nel corpo, ma non ci trasformiamo nel nostro modo di ragionare, siamo fuori luogo, siamo tagliati fuori. Quell'adulto ragiona come un bambino, ha un'accezione dispregiativa. Noi abbiamo bisogno di diventare grandi. E molto spesso queste due nature sono in contrasto. Da una parte noi vogliamo metterci poco, non consumare energia, stare comodi comodi. Dall'altra dobbiamo crescere, cambiare. Oggi parlavo, ero in un'azienda, stavamo preparando una riunione, una convention, abbiamo trovato una frase bellissima di Darwin che diceva questo. Diceva, non è che si salva l'essere vivente più intelligente, più grande, più forte, si salva colui che si adatta meglio al cambiamento. E quindi noi dobbiamo crescere. Questa è la seconda natura dell'essere umano. Attenzione, una parola ancora più bella, una volta una persona mi ha consigliato di usare la parola trasformarsi, cioè ripartire da ciò che sono per farlo diventare più grande. E allora come conciliare queste due nature? Da una parte quella di stare comodi e dall'altra quella di voler diventare grandi. Eccola qua. Arriviamo, alle emozioni arriviamo. Noi abbiamo una zona di comfort in cui siamo tranquilli, stagno tranquillo, e poi di tanto qui ci stiamo bene, cerchiamo di fare di tutto per poter stare tranquilli. Però poi cosa succede? Che noi non decidiamo tutta la nostra vita. Abbiamo delle cose che succedono dall'esterno che ogni tanto cosa fanno? Ci portano in quella che noi chiamiamo zona di panico. Che cosa intendo dire con questo? Visto che parliamo della rabbia, veniamo crediti da qualcuno. Ci chiedono un compito importante, perdiamo il lavoro. Ci troviamo a gestire una situazione in cui ci sentiamo inermi. Finiamo in una zona in cui non ci sentiamo attrezzati. Questa zona si chiama zona di panico. Che cos'è che caratterizza la zona di panico piuttosto che la zona di comfort? Le emozioni che proviamo. Ecco che cominciamo ad avvicinarci alla rabbia di cui volevamo parlare. Le emozioni che noi proviamo. Perché quando noi siamo in zona di panico, non scegliamo la via migliore. Se voi pensate all'ultima volta che avete avuto un attacco di panico perché vi siete sentiti fortemente in crisi, sicuramente vi renderete conto che quello non è il modo migliore per decidere. E in questo momento in cui ci troviamo a vivere una situazione di ridimensionamento generale, a livello sociale, economico, eccetera, eccetera, ci troviamo spesso in una situazione di panico. Che cosa fare? Come conciliare allora queste due nature? C'è una zona un po' più verde, un po' più scura, la vedete dove c'è una rana? Che io chiamo zona rana, ma che gli esperti chiamano zona di apprendimento. Che cosa vuol dire? Se io so che la zona scomoda, se la zona di panico è laggiù, io faccio un passo al di fuori della mia zona di comfort. Vuol dire che se io so che c'è quella persona che mi mette in difficoltà, perché si comporta in un certo modo, io provo ad approcciarla, provo ad andarle incontro in una situazione protetta, cerco di sforzarmi un pochettino. Perché, e qui cominciamo a ragionare sulla rabbia, mettersi scomodi aiuta ad apprendere. Quando si sta scomodi si apprende. Per agganciarmi al tema di cui volevo parlare questa sera, vi racconto una storia che mi è capitata per davvero. Stavo facendo un lavoro di coaching individuale con un manager in un'azienda e a un certo punto quest'uomo mi dice: senti Cristiano, io ho 40 collaboratori, funziona tutto bene, ho un problema, soltanto con uno, dimmi. Vabbè, però non è uno dei miei collaboratori, dimmi, e chi è? È mio figlio. Quanto mi serve? Quanti anni ha? 4. Ma davvero? Cioè tu gestisci 40 collaboratori e poi hai il problema con tuo figlio di 4 anni? E così abbiamo iniziato a chiacchierare un po', lui ha cominciato, gli ho chiesto: dimmi che cosa succede con questo bambino, insomma, fondamentalmente quali sono i problemi che tu percepisci. Lui mi dice: non mi ascolta. Ah sì? Non ti ascolta. Non fa quello che voglio. Davvero? Poi tutto sembra che lo faccia apposta, se sa che una cosa mi fa arrabbiare, proprio su quella. E così abbiamo chiacchierato una bella oretta. Dopo un po' che ascolto tutte queste sue belle argomentazioni, me ne sono uscito con due domandine facili facili. La prima: che cosa desideri per lui? Wow. Vai, pensaci un attimo. E lui mi dice: come, cosa desidero per lui? È logico, desidero il suo bene. Ecco, dimmi, ma com'è il suo bene? Che cos'è per te il suo bene? Come fai a sapere qual è per lui il suo bene? E poi ho chiesto quest'altra cosa qui. Che cosa ti manca per aiutare a raggiungere questa cosa qua? Di desiderare il suo bene. Di raggiungere il suo bene. E così è partita una riflessione molto profonda, in cui siamo arrivati a questa doppia immagine per quanto riguarda il rapporto con i nostri figli, con i bambini in generale. I nostri figli hanno la tendenza a vivere comodi. La nostra società ci ha protetto, ci protegge, protegge i minori dalle emozioni, da tutto quello che è paradossale. Pensate quanto siamo sensibili alle lacrime di un bambino, a un capriccio di un bambino, quanto soffriamo. Probabilmente le persone che sono qui stasera hanno già un particolare livello di sensibilità nei confronti dell'argomento, no? Però, voglio dire, quando piange, cioè, il classico attacco che abbiamo nei confronti dei nonni, no? Perché non reggono le lacrime, e allora non le ricaricano di vizi. Allora la riflessione che abbiamo fatto è stata questa alla fine: io devo aiutare mio figlio a divenire ciò che è. Mamma mia, che riflessione profonda. E qual è il ruolo di un genitore in questo contesto? È il ruolo di colui che ha un punto di vista diverso, un animale diverso da lui, che guarda la situazione dall'alto, che gli dice: tu puoi dare molto di più, ma il viaggio lo devi fare te, non lo posso fare io. Partendo da una convinzione, che quel bambino è una rana, e lo è già stato perché ci ha pensato madre natura, il ruolo del genitore è soltanto quello di aiutarlo a divenire ciò che è e di accompagnarlo in questo percorso. Difficilissimo, questa è la parte teorica, poi arriviamo alla pratica. Mi pare a settembre-ottobre ho partecipato a un convegno bellissimo e sono andato a Barbiana, non so se qualcuno di voi ci è mai stato, dove negli anni 60 e 70, mi pare, se non ricordo male, c'è stato Don Milani. E facendo un cammino il cammino per arrivare su alla chiesetta, a un certo punto ho trovato questa scritta e ho capito quanto sia importante per un adulto lavorare al fianco di un figlio per fare in modo che questi tiri fuori i propri talenti. C'era scritto così: ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e quindi secondo le proprie capacità, la propria scelta, un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. I nostri figli hanno un compito che è quello di divenire brane. E quando qualcuno mi dice, nei percorsi che facciamo con i ragazzi sul progetto di vita, di realizzare il tuo talento non è soltanto un tuo diritto, è un tuo dovere nei confronti della società. E poi la domanda: che cosa mi manca come genitore? Di solito quando in un'azienda il direttore generale, piuttosto che il responsabile delle risorse umane, piuttosto che il capo squadra mi dice, io non capisco se quello lì ci è o ci fa. Ma non ci arriva. Senti, gli vado, vai laggiù e guarda un po' se quello lì non ci arriva o se lo fa apposta. Secondo me non ce la fa, è limitato. Succede? Quando guardate uno e dite, in realtà, e questo vale anche per quanto riguarda l'analisi che noi possiamo fare con i nostri figli, le gambe di questo pilastro per arrivare a diventare ciò che siamo non sono due, sono quattro. Sono sì il talento e le competenze, cioè le conoscenze, ma ce ne sono altre due: la motivazione, la voglia di fare e le risorse che abbiamo a disposizione. E ahimè vi devo dire una cosa: io faccio anche il coach di professione, che significa che aiuto le persone a raggiungere gli obiettivi che loro vogliono. Quando una persona non ha motivazione, io rinuncio al lavoro. Se vostro figlio, anche se piccolino, non decide di voler vivere la propria vita, mi spiace. Io vedo ogni tanto nei racconti dei genitori, quando lavoriamo negli incontri individuali, delle cose terribili in merito ad aspettative nei confronti dei figli, aspettative su delle cose che loro non sono. La prima attività di un genitore è quella di cercatore d'oro. Quali sono i talenti di mio figlio? E poi vi dirò che cosa mi serve questa promessa. Adesso l'ho fatto venire un po' l'ansia, vi assicuro un po'. Il dovere del genitore, secondo la mia opinione, non è non sbagliare mai e nemmeno raggiungere una perfezione precisa, ma secondo me è spendere tutto se stesso per far sì che i propri figli possano divenire in pienezza ciò che sono e valorizzare i propri talenti. E adesso arriveremo alla rabbia. Un passaggio fondamentale, secondo me, la nostra società l'ha fatta nel momento in cui è passato dalla teoria dell'intelligenza alla teoria delle intelligenze. E qui ci sono tantissimi bravissimi insegnanti, mi hanno detto, no? Che cos'è interessante? È interessante che negli anni, fino agli anni 60, mi pare, adesso non vorrei dirvi una stupidaggine, si credeva, in fondo c'era il famoso quoziente intellettivo, si faceva un test, tu eri quel numerino lì da 0 a 100, da 50 a 110, 120, 130, 140, che fosse, e quello te lo portava, così eri nato. Era una specie di condanna, una spada di Damocle che avevi lì, se eri nato tu non ci potevi fare niente, te lo portavi dietro per tutta la vita. Poi è arrivato uno studioso che si chiama Gardner, che ha scoperto che ci sono tante intelligenze, ha teorizzato tante intelligenze, e dice, c'è l'intelligenza linguistica, quella logico-matematica, quella cinestetica. Non so se voi avete presente, tra gli insegnanti c'è quello bravissimo che eccelle tutte le materie, no? Matematica, italiano, scienze, poi va a fare ginnastica e rugby, no? È un po' duro, no? Oppure c'è quello che è incredibile. Qual è la riflessione che vogliamo fare da questo punto di vista? È andare a scovare quali sono quelle dei nostri figli, quali sono le intelligenze dei nostri figli, e questa sera in particolare porre l'attenzione su due di queste, che sono l'intelligenza che Gardner chiama l'intelligenza intrapersonale, ok? O intelligenza emotiva, e l'intelligenza interpersonale, cioè l'intelligenza sociale. Come noi entriamo in relazione con gli altri. Allora, io vi chiedo scusa per una cosa, non sono un accademico. Io, non so se voi avete mai visto Quark, l'avete visto qualche volta? Ecco, io non sono il tecnico, lo scienziato che arriva lì e che gli dice funziona così la legge della fisica, ma io sono Piero Angela. Quindi può darsi anche che commetta qualche gaffe da un punto di vista teoretico, teorico, puro. Però questi concetti qua li ho presi con degli studiosi esperti, ho cercato di tradurli in concetti spendibili e comprensibili per chi non è tutti i giorni addetto al lavoro. E quindi adesso cercheremo di entrare un po' più a fondo nella questione intelligenza, emozioni e aggressività. Non solo corteccia, ovvero, come funziona un po' la nostra vita? Nella nostra vita noi abbiamo degli eventi, giusto? Che cos'è l'intelligenza? Ho cercato tantissime definizioni di intelligenza e poi ne ho trovata una che mi piaceva di più di tutte, che è questa, che dice l'intelligenza è la capacità che un individuo ha di dare una risposta corretta all'ambiente in cui vive. No? Quindi io ricevo uno stimolo da un evento esterno, questa roba qua finisce nel mio cervello e io do una risposta di tipo comportamentale, vero? Siete d'accordo? Possiamo provare a definirla in questo modo? Solo che, ahimè, non è che funziona proprio così, perché dicono gli studiosi che noi abbiamo una dimensione sì razionale, ma abbiamo anche una dimensione emotiva. Wow! E che cos'è questa dimensione emotiva? Allora, questa dimensione emotiva ha sede, dicono gli studiosi, dice questo, Goleman ha fatto un lavoro di ricerca interessantissima, lo trovate in un libro, in un manuale che si intitola Intelligenza emotiva, e poi c'è tutta una collana che è intelligenza emotiva per il lavoro, intelligenza emotiva per la scuola, intelligenza emotiva per la suocera, ce li avete tutti. Lui dice questa cosa qui, si è fatto una domanda, dice, ma da un punto di vista biologico, proprio, che cosa succede? Dove hanno origine le emozioni e a che cosa servono? E per dirla proprio in soldoni, in maniera molto pragmatica, noi abbiamo una ghiandolina che è sistemata qua dietro, no? Nell'apparato limbico, quello che gestisce le emozioni, che viene chiamata amigdala, che significa mandorla. Che immaginate che sia un pochettino come un hard disk, in cui sono salvate tutte le emozioni nell'arco della nostra vita e nell'arco dell'evoluzione della nostra specie. Per farvi un esempio che fa Goleman, perché noi, anche se noi statisticamente abbiamo molte più possibilità di avere un incidente d'auto, di farci male in auto, che di incontrare un serpente velenoso, abbiamo molta più paura di un serpente velenoso di quanto non abbiamo paura di quando saliamo in macchina. Questo perché il nostro cervello, da un punto di vista evolutivo nel corso dei secoli, che cosa ha fatto? È andato a cercare una via più breve. Per che cosa, secondo voi? Quando è che noi abbiamo bisogno di avere una risposta in fretta? Quando dobbiamo sopravvivere? Madre Natura ha pensato che se voi vi date una martellata su un dito, ad esempio, questo è un esempio efficace, ci vuole un attimino prima che il messaggio arrivi, no? Ci sono delle scene di cartoni animati bellissime in cui il personaggio si dà una martellata sul piede, ci vuole un attimo prima che si accorga, perché comunque siamo umani, abbiamo una componente meccanica di noi. E quindi in certi contesti probabilmente quel circuito razionale non ci avrebbe consentito di dare una risposta immediata in termini di sopravvivenza. Quindi che cos'è l'amigdala secondo questi studiosi? È un sistema di allarme centralizzato, ovvero è un sistema che ci permette di percorrere una via bassa, di passare nel basso. L'avete visto prima? No? Qui? Se prende la via bassa, che cos'è che salta? La parte razionale. Ecco quindi la risposta al perché naturale che ha dato questo scienziato delle nostre emozioni. Ah, io quando ho scoperto questa cosa qua ho tirato un sospiro di sollievo e ho detto, Fiore, non è colpa mia perché io mi arrabbio. La più grande conquista della mia vita, ve lo potrò confermare mia moglie, non è colpa mia perché io ho paura. Io ho sempre creduto di essere un fifone. E poi ho scoperto, come dice il libro di Goleman, che le persone a cui per motivi chirurgici viene asportata l'amigdala non hanno più paura e si espongono a dei pericoli enormi e corrono dei rischi pazzeschi di morire. Perché non sono più nelle condizioni di difendere. Signori, quindi le emozioni non sono qualcosa che dobbiamo controllare o combattere. Sono uno strumento di sopravvivenza, utilissimo. E l'amigdala è proprio questa cosa qua. Ma che cos'è allora un'emozione? Dovevo cercare l'immagine e non sapevo, no? L'emozione è come una fiamma, vedete? C'è quella roba irregolare che ti prende tutte le parti, no? E che tu non riesci a controllare. Adesso stiamo arrivando pian pianino alla rabbia. Che cos'è l'emozione? L'emozione, dicono, dice questa definizione, è un'agitazione o turbamento della mente sentimento, passione, ogni stato mentale violento e eccitato. Quali sono le emozioni primarie? Allora, intanto non esistono, non esiste un accordo fra tutte le teorie sulle emozioni, nel senso che ci sono, c'è disaccordo su questi punti. Quello che possiamo dire è che ci sono delle emozioni più primarie e delle emozioni secondarie, ok? Tra le emozioni primarie, a seconda delle teorie che si vogliono seguire, abbiamo la collera, e quindi la rabbia, la tristezza, la paura, la gioia, l'amore, la sorpresa, il disgusto, la vergogna. Ieri sera è successa una cosa incredibile. Sono arrivato a casa e mia moglie aveva una riunione di lavoro e dico a mio figlio, vai un attimo di là, preparati la cartella, 8 anni. E poi dopo vedo che era, beh, effettivamente un paio di minuti che era di là, che quando c'è silenzio è preoccupante. Sono arrivato, l'ho trovato con le mani nella marmellata. Apro la porta, bocca piena, penso avesse sbagliati i dolci in bocca, istantaneamente mi ha guardato e mi fa, non stavo facendo niente, scusa. Dopo un attimo è scoppiato a piangere, assalito della vergogna. E io mi sono detto, domani sera c'è una serata sulle emozioni, e che cosa gli dico adesso a questo qua? Come faccio a fare l'intervento giusto per avere la faccia di andare domani davanti a 100 genitori e dire, guardate, si fa così? Ve lo dico dopo che cosa ho fatto. Per adesso facciamo un passo in avanti e pensiamo a quali sono le caratteristiche delle emozioni. Da 5 parole chiave. Prima di tutto, le emozioni sono delle reazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che si verificano sempre in seguito ad uno stimolo esterno. L'emozione è una variazione di stato. Vuol dire che non dipendono mai da un fattore assoluto. Vi faccio un esempio. 2.000 euro di stipendio non corrispondono a un'emozione. Corrispondono a un'emozione di un certo tipo per chi guadagna 1.000 euro. Corrispondono a un'altra per chi ne guadagna 3.000. Quando a noi capita uno stimolo esterno che genera una variazione di stato attorno a noi, si genera un'emozione. Ok? Quindi, stimolo esterno provoca una variazione di stato, l'abbiamo detto, di improvvisa e forte intensità. La fiamma, avete visto? Prende la scorciatoia, si attivano delle ripercussioni psicosomatiche. Provate a pensarci. Una faccia stupita. Com'è una faccia stupita? Chi è che mi fa una faccia stupita? Fatemi una faccia stupita. Guardate, guardate che cosa succede. Stupore. La meraviglia. La natura che cosa fa? Ci apre tutti i recettori. L'uditivo, il visivo e l'olfattivo. Per ricevere più informazioni, perché siamo sorpresi. Adesso potrei farvi tanti esempi, ma io non sono un esperto da questo punto di vista. Ma ad esempio la paura porta il sangue negli arti inferiori per poter scappare. Potremmo dirne tantissimi. Ci irrigidiamo, perché se veniamo attaccati, un corpo rigido, se viene, deve essere colpito da qualcosa di esterno, è più difficile da essere ferito che non un corpo rilassato, un corpo morbido. Abbiamo poi la differenza, vi do soltanto 2 o 3 informazioni un po' più tecniche, la differenza che c'è tra un'emozione e uno stato d'animo. L'emozione è un picco di questo tipo, lo stato d'animo è più basso di intensità, ma più prolungato nel tempo. E poi qualcuno dice che ci sono i temperamenti, ovvero le predisposizioni naturali a richiamare determinate tipologie di emozioni. Oggi ero in macchina con il direttore di un'azienda che mi dice, io ho figlio e nipote, uno era pazzo, spericolato, non aveva nessun tipo di remora per qualunque cosa, andavamo in giro, saliva sugli alberi, eccetera, eccetera, e quell'altro sempre sotto, che si cagava sotto, non faceva un passo, eccetera, eccetera. Di fronte allo stesso stimolo. Ma allora, a che cosa servono le emozioni? Perché mio figlio si arrabbia? A che cosa gli serve arrabbiarsi? Qualcuno di voi l'ha scritto? Perché se la prende con me? Perché si arrabbia con me e non con mio marito? Allora, 2 cose. Sopravvivenza, l'abbiamo visto prima, la via breve, e poi affermazione di sé. Le emozioni hanno questi 2 ruoli. Da una parte ci servono per sopravvivere, quando veniamo attaccati abbiamo bisogno di fuggire. Pensate che dicono gli studiosi, no? Che noi abbiamo questi 3 livelli in cui si sono evolute i centri che gestiscono le nostre emozioni. Abbiamo una parte nostra che viene chiamata parte più di tipo sensazionale, fondamentalmente legata alle sensazioni, che viene chiamato anche cervello rettile. Chi è che suono? Sono io. No. Cervello rettile. Attacco fuga. Avete presente? Questo è il primo passaggio che bisogna conoscere per capire le emozioni. Ci sono persone che quando si sentono attaccate diventano aggressive, altre che implodono. Questa è una parte istintiva, la prima parte che risponde di noi. Arriva uno e dice, e tu dici. Oppure immediatamente comincia a nuotare, anche se non hanno argomenti. Questa è la parte più ancestrale, che fa parte della nostra natura, che hanno anche molti animali, ha forme molto meno evolute dell'uomo. Poi c'è l'apparato limbico, quello che gestisce le emozioni, quindi l'amigdala, la memoria storica che noi abbiamo, dicono gli studiosi, che noi dentro questa specie di hard disk cominciamo a salvare file quando siamo molto piccoli, anche quando non siamo ancora consapevoli. E di qui l'importanza del ruolo educativo del genitore nel conoscere le emozioni. Perché anche se un bambino, l'altro giorno parlavo con una persona, ero nel milanese, e parlavo con un uomo che mi diceva, è un periodo che mi sto litigando tantissimo con mia moglie, ma mio figlio ha 3 anni, non capisce. Ah sì? Mamma mia. Non essere consapevoli dal punto di vista emotivo, non manifestare emotivamente, non significa che le emozioni non abbiano su di noi una ripercussione. E arriviamo alla rabbia. Che cos'è la rabbia? Che cos'è la rabbia? Ho disegnato un leone in gabbia. Tra le tante definizioni che ci sono della rabbia, una che mi è piaciuta molto è che la rabbia sia una reazione alla costrizione o alla frustrazione, fisica e psicologica. Quindi, se noi andiamo a fare un passo indietro, è un'emozione che ci viene quando arriva uno stimolo esterno. Le persone non si arrabbiano mai per caso, deve succedere qualcosa. Io mi arrabbio tantissimo e mia moglie lo sa quando mi faccio male. No? Quando faccio male? Quando sono in ritardo, perdo tempo? E quando sono accusato ingiustamente? Ecco, così conoscete tutti i miei difetti. Perché sapete, ogni tanto qualcuno mi dice, ah, ma sei così interessato di tutti questi argomenti, no? E poi un giorno ho trovato una risposta parlando con un mio amico diabetico, e lui mi dice, molto importante la parte medica, nel senso che per la cura, la terapia del diabete, eccetera, eccetera, mi dice, però sai, quando poi dopo devi capire come gestirti la glicemia, queste cose qua, una volta che ti sei fatto la base, la cultura medica, tutto, che è molto importante, è utilissimo confrontarsi con le persone che hanno diabete. Perché loro ti dicono la loro esperienza. Quindi, se voi vedete tutte queste emozioni qua, io sono molto coerente in quello che dico perché le provo tutte e ho dei grandi problemi con tutte queste. Quindi non mi risparmio niente da questo punto di vista. Quali sono gli eventi che cagionano la rabbia? Secondo voi? Uno stato di bisogno. Quindi, attenzione, cominciamo a riflettere sulle domande che avete fatto. Perché mio figlio si arrabbia? Potrebbe essere in uno stato di bisogno. Wow. Due, un oggetto, oppure un animale, una persona, si oppone alla realizzazione di questo bisogno. Quindi io percepisco di avere un bisogno, attenzione, non abbiamo ancora detto che questo bisogno sia legittimo, ma io ho questo bisogno, qualcosa mi si frappone in metà. Terzo, io attribuisco intenzionalità a quell'oggetto, a quella persona, o a quell'animale, il fatto di farlo apposta a mettersi di mezzo con me. Vero, verissimo, verissimo. Wow. Che cosa ci dice questa cosa qua? Qualche tempo fa stavo facendo un lavoro di supervisione con il mio supervisore e io le dico, stavamo parlando proprio dei figli e lei mi dice, sai, se tuo figlio arriva a casa e ti piangendo e ti dice, papà, cos'hai? Oh, sono disperato, cosa ti è successo? Oggi il mio amico più prezioso mi dice che non mi fa più amico. Ma davvero? E tu cosa gli dici? Ma no, perché la cosa vuoi che sia cavolata, giusto? Eccola, più o meno. Non siamo mica a posto. E così mi ha raccontato questa storia qui. E poi vi dico che cosa mi ha suggerito di dirti. Dice, un papà è a casa, vede il figlio arrivare, un po' più grande, già 12 anni probabilmente, arrabbiato. tantissimo con un suo compagno, perché questo lo ha sbeffeggiato davanti a tutti i suoi colleghi. Che cosa ti è successo? Cioè, mi ha trattato malissimo, mi ha fatto fare una figura pessima. Allora papà lo lascia parlare per un bel po' e poi a un certo punto gli dice: guarda, la vedi quella carbonella? Sì, quel sacco, sì. Lo vedi quel lenzuolo giù? Sì. Hai voglia? Prova a scagliarglielo contro. Io non ci può credere, dice: ma veramente? Posso lanciare la carbonella sulla lenzuola pulita? Sì, comincia. Allora timidamente mette un po' lo zaino, timidamente prende questa cosa qua, inizia a lanciare, lancia il primo pezzo mancato. Però poi dopo sale la tensione, c'è una cosa mancata, comincia, il primo colpo successo, e poi ancora, ancora, ancora, più vede che quel lenzuolo è macchiato di nero, e più dà soddisfazione. Quando finisce la carbonella, e papà lo sta a guardare, dice: come va? Benissimo, come ti senti? Bene, grazie papà, grazie. Ecco, bravo, adesso vai a guardarti allo specchio. Lui va a guardarsi allo specchio e si rende conto che è nero da testa ai piedi. E allora il compagno dice: che cosa ti insegna di te questa cosa qui? Quello che ciascuno di noi vive quando ha uno sfogo di rabbia. Che probabilmente, se noi agiamo in un momento di rabbia, parliamo in un momento di rabbia, abbiamo una fortissima, una grandissima possibilità di dire qualcosa di cui poi ci pentiremo. E lavoro tantissimo sulla comunicazione, no? E una delle cose più difficili da far capire alle persone è che non è che quando una persona ha detto una cosa per forza crede in quello che ha detto. Molto spesso le persone dicono le cose sull'onda emotiva. E quando lo dite sull'onda emotiva, però, create un codice, un qualcosa che il vostro interlocutore che sta dall'altra parte fissa nella sua testa. Se non siete chiari dal punto di vista di quello che state provando emotivamente e non dite che non pensate quello che state dicendo, fate un danno grosso. Come insorge la rabbia? Un fattore innescante. Nella mediazione dei conflitti, io mi occupo anche un po' di questo, di aiutare, ci sono dei posti, delle realtà in cui lavoro in cui mi chiamano nei gruppi e mi dicono: vieni te, perché quando ci sei te noi litighiamo. Dico: ah sì, davvero? Oh, bello, interessante. C'è un fattore innescante. Io smonto costantemente i pretesti, le situazioni pretestuose. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un fattore innescante che va a toccare nel bisogno, ma il bisogno, come abbiamo visto prima, è individuale. È una roba strettamente personale. E anche se vostro figlio ha soltanto 2, 3, 4, 5 anni, ha dei bisogni individuali diversi dai vostri, diversi dai miei. Io ho due figli, uno l'abbiamo portato a cucire il sopracciglio qua sopra, lo tenevamo in tre e il chirurgo cuciva e quello era fermo, immobile, giusto gli scendeva una lacrima. Il secondo genito si stacca la pellicina dell'unghia qua, lo sente qua, tutto fino a due modi diversi di manifestare le emozioni. Sono figli nostri tutti e due, me lo auguro, credo che sì, sono andati. È incredibile quanto siano diversi uno dall'altro. Fattore innescante, risposta psicosomatica. Quindi noi ci predisponiamo istintivamente all'azione. E in quel momento in cui, dopo il fattore innescante, se noi siamo predisposti all'azione, abbiamo altri pretesti, scatta quello che viene chiamato la cosiddetta escalation. Ah sì sì, io l'ho capito. C'è qualcuno che lo va a ricercare a quel momento lì. Proprio perché quell'intensità emotiva, le emozioni, sapete che le emozioni hanno anche un'altra caratteristica, che ci fanno sentire vivi, no? Se no perché ci sarebbe gente che va a fare tutte queste robe stranissime, schiaccia l'acceleratore fino a 200, si butta giù a peso, no? E ricerchiamo le emozioni. Qualcuno ricerca la rabbia. Una volta una persona, me lo ricordo ancora, era un lavoro che stavo facendo in Veneto, mi dice: io non so perché, ma cerco di far arrabbiare il mio collega, lo faccio apposta. Lo faccio apposta e non riesco a capire perché. Quindi si genera il nostro organismo. Adesso io non vi so dare le risposte, non mi ricordo più tutte quelle che sono le risposte dal punto di vista organico, ma se voi andate a leggervi Goleman nella prima parte, lui vi dice proprio questo, che l'organismo, i nostri organi si predispongono per essere pronti all'azione, e se noi non siamo capaci di gestire la nostra rabbia e quella altrui, rischiamo di finire nella cosiddetta furia. E quindi che cosa me ne faccio di questa emozione di rabbia? Come mi posso comportare per evitare di fare troppi danni? Qualcuno di voi si è già fatto questa domanda? Vi arrabbiate? Bene. Oppure, Quindi il primo passaggio, ve lo dico io, che sono che si arrabbia tantissimo, mi arrabbio molto meno adesso di una volta, ma è quello di lavorare su di sé, se vogliamo lavorare sugli altri. La prima riflessione che mi viene da fare, ripeto, io non sono né un sociologo né uno psicologo, ma se i nostri giovani, i nostri ragazzi sono così tanto arrabbiati, ed è vero che le emozioni sorgono e la rabbia è l'espressione di un bisogno frustrato, io vorrei sapere, al quantomeno aprire con voi una riflessione su quali sono i bisogni frustrati dei nostri ragazzi. Potrebbe essere molto interessante. Disinnescare il cortocircuito. Allora, come fare a disinnescare il cortocircuito della rabbia? Attendere che l'orda dell'adrenalina si estingua. Sarebbe facile, eh? Aspetta che ti passa. Demolito mattina del bagno. Succede? Vai tranquillo, vai di là. Successo niente, bam bam bam. Mannaggia la miseria. Oppure, la distrazione è un meccanismo portentoso. La distrazione è un meccanismo portentoso. Dicono gli studiosi che il picco emotivo dura circa una ventina di minuti, a seconda dell'intensità. Ma quando siete fortemente in ansia, fortemente arrabbiati, fortemente tristi, questo picco dura, secondo gli esperti, 20 minuti. Che cosa fare in quei 20 minuti? Adesso vedremo qualche consiglio pratico, eh? Però una cosa è certa, in quei 20 minuti, se siamo sequestrati dall'amigdala, come dice la mia collega, siamo sequestrati dalla mandorla, il cervello non funziona. L'unico sistema che abbiamo per fare questa cosa qua è cambiare il contesto all'interno del quale noi ci troviamo. Quindi da genitore distrarre il figlio, io, a me capita sul lavoro, quando scattano queste riunioni, queste problematiche nelle riunioni, dire aspetta un momento, adesso ci dividiamo, calcoliamo le distanze, no? Il mito del conflitto, nei paesi nordici non hanno tutti questo problema del fatto del vogliamoci bene per forza tutti quanti. Ci si può anche calcolare la distanza, perché le nostre libertà, rispettare un individuo, avere riconoscimento e rispetto per un individuo che ci sta vicino a noi, non significa per forza diventare amici di tutti. Questo fa molti danni dal punto di vista culturale. La rabbia ha un problema gigantesco, che ha un pregiudizio culturale dalle parti nostre molto negativo. La capacità che noi abbiamo di resistere, noi siamo molto permalosi storicamente con la rabbia, fatichiamo a dimenticare da questo punto di vista una persona che si è arrabbiata con noi. Ma se l'insorgere di un'emozione noi non lo possiamo impedire, perché noi non possiamo controllare i fattori esterni, quello che noi possiamo fare è gestire l'emozione quando questa si verifica. Ci sono degli studi dei monaci, i monaci nell'Ottocento, 1200 anni fa, che avevano già capito questa cosa qua sul tema delle pulsioni, che il mettere in gabbia una pulsione, mettere in gabbia un'emozione forte è impossibile, perché poi trova una scappatoia e fa un danno. Nel libro di Goleman ci sono tantissimi esempi concreti di persone che hanno combinato dei disastri incredibili, che sono stati sequestrati dalla amigdala. Ci va, sai, due persone normali, poi all'improvviso scatto di rabbia perché non hanno dialogato con le loro emozioni precedentemente, probabilmente. Parliamo sempre nell'ambito dell'agio, perché poi c'è la questione del disagio lì. Bisogna che ci facciamo delle riflessioni di altro tipo, con altri tipi di professionalità. Il ruolo dell'attività fisica, questo è molto importante. Per gestire le emozioni, quando siamo nel picco emotivo, non passiamo attraverso la testa, passiamo attraverso il corpo. Una delle prime regole, ad esempio per gli stati d'ansia o per altre metodologie, che funziona moltissimo, è quando noi siamo in preda a un attacco emotivo, ci distacchiamo, è come se non fossimo più padroni di noi stessi, ci distacchiamo dal nostro corpo. Che cosa facciamo? La prima cosa è diventare padroni del nostro corpo. E quindi qua ci sono dei lavori bellissimi. Io ad esempio, quando dico, c'è un contesto in cui non puoi fare la passeggiata, rilassare, distaccarti, il primo gesto da fare è riprendere contatto col proprio respiro. Dei lunghissimi respiri. Un modo per riprendere contatto con sé. Se ti dicessero, non hai niente, non ti puoi muovere di qua, riprendi contatto con te stesso, esercizi di respirazione. Altre cose, l'acqua. Provate a pensare a una riflessione che mi molto interessante. Una volta una ragazza mi ha raccontato un episodio per dirvi quanto, ad esempio, secondo voi, l'emozione della paura a quale organo potrebbe essere collegato? Io non lo so. Però io vi racconto un episodio. Mi racconta una ragazza durante una sessione di coaching, mi dice, mi racconta la storia della sua vita e mi dice, io ero in un paese del Sud America, un paese molto violento del Sud America, ero fermo alla fermata del pullman, è passata una macchina, ha tirato giù il finestrino, ha tirato fuori mitra e hanno ucciso un ragazzo a 2 metri da me. Lei mi dice, io non me ne sono accorta, quando mi sono girata mi ha fatto tutto addosso. E no, noi abbiamo i centri che gestiscono le nostre emozioni collegate ad alcuni organi del nostro corpo. Recuperare in modo soft da questo punto di vista l'acqua, ad esempio per quanto riguarda l'emozione della paura, dicono gli studiosi, sono tutte piccole cose che probabilmente non vi daranno la svolta. Io sto facendo un lavoro in questo momento con una trentina di giovani ingegneri e gli dico, fare il progetto per diventare competenti dal punto di vista soft non è come fare un progetto da ingegnere. Però decidere di rimanere incompetenti in queste aree qui significa che se io ho la possibilità di vivere bene al 30% la mia vita, se io mi attrezzo, posso viverla bene al 70% e valorizzando le mie capacità. Quando a me qualcuno mi dice qualcosa, io non ho la probabilità scientifica, forse non me ne vado, mi vado a informare, perché questa cosa qua mi può dare un beneficio da questo punto di vista, può rendere la mia vita migliore. Il falso mito dello sfogo. Sfogate la rabbia, così almeno poi ti passa. Decidete. Se voi volete, poi a un certo punto, ritrovarvi tutti neri e a vivere la frustrazione di essere stati arrabbiati e di aver fatto dei danni con le persone e quindi cominciare un'escalation di emozioni negative e dire sono un incapace, io sono un iracondo. Con i vostri figli non usate il verbo essere quando parlate delle loro emozioni. Non gli dite sei collerico. Non gli dite sei cattivo, ma gli dite fate, fai, non fare così, perché questo è un comportamento cattivo. Non sei un incapace, hai fatto un errore. Non usate il verbo essere, perché la persona nel momento in cui si sente intaccata nell'essenza si difende. Disinnescare il cortocircuito, quindi lavorare sul corpo, mettere in discussione i pensieri negativi, una cosa che serve moltissimo, che caratterizza ad esempio chi fa il mio lavoro, il coaching individuale, è tutto orientato al futuro. L'origine della parola coach è carrozza, dire accompagna una persona a raggiungere un qualcosa che lei desidera. Noi abbiamo bisogno ogni tanto di variare il nostro punto di vista, come la rana prima che stava dentro lo stagno e che ha bisogno di guardare dall'alto, di farselo dire da qualcun altro. I nostri talenti sono molto spesso soffocati da questo punto di vista e ci abbiamo bisogno di qualcun altro che venga a dircelo che noi abbiamo. A che cosa mi serve? Il classico esempio della macchina, dell'incrocio, fermiamoci, contiamo fino a 5 e diciamo, a che cosa mi serve? Fatevi questa domanda, a che cosa mi serve arrabbiarmi in questo modo? Perché? Il perché è la radice del passato. A che cosa mi serve? Quale fine? E l'escalation, perché poi la furia genera un'incapacità cognitiva. Cosa vuol dire? Se noi andiamo in escalation, perdiamo la capacità di ragionare da questo punto di vista. Ultimi 3 concetti. Mi piaceva moltissimo questa immagine, il concetto della temperanza, che è una virtù di resistere alle tempeste emotive. Oh, che bello. Che non significa non vivere le emozioni. Che poi mi piace, perché poi dopo un po' imparate a conoscerle. Certe volte è anche una soddisfazione vedere che si è passati attraverso. L'altro giorno una persona mi diceva, durante una sessione di coaching, mi dice, è arrivata mia moglie e mi dice una cosa che mi ha fatto veramente dispiacere. E tu cosa hai fatto? Io le ho detto, guarda, mi sento profondamente umiliato. E poi sono andato via. Ho contato fino a 5 e poi ho pensato quella domanda che mi avevi detto di farmi tu, cioè che cosa mi dice di me questa emozione? E poi ho pensato a un'altra frase che dice: probabilmente quando un'emozione ci tocca nel profondo è proprio perché noi abbiamo qualcosa che per noi è profondamente importante lì. Quando i vostri figli si arrabbiano per qualcosa, probabilmente perché lì dietro c'è qualcosa di importante per loro, così come lo è per noi. Ci sono due tipi di equilibrio. C'è l'equilibrio della sedia e l'equilibrio della bicicletta. Lavorare sulle emozioni e sulla intelligenza emotiva è l'equilibrio della bicicletta, che vuol dire che se non vai avanti cadi. Perché più andiamo avanti, più la posta in palio aumenta. Da bambini, da ragazzini, da adulti, da giovani, da adulti, da genitori, la posta in palio è sempre più alta. I rischi che corriamo sono sempre più alti e con gli strumenti che noi abbiamo, se non li accresciamo, non siamo in grado di reggere le nostre sfide in pienezza. Diamo tempo ai nostri figli. C'è una parte di loro che cresce molto in fretta perché sono iperstimolati, ma da altri punti di vista sono stimolati troppo presto. Pensiamo a tutta la dimensione della corporeità. Un giorno un contadino, durante un corso con delle aziende agricole, mi dice, e posso dirlo in piemontese, sì, mi dice: se tu perdi il grano, prevenenti relo, per gli urgianti. Se vuoi far crescere il grano, non puoi tirarlo, lo strappi. Diamo tempo ai nostri figli. Proviamo a utilizzare con loro questi meccanismi emotivi. Il lavoro di gestione delle emozioni è un lavoro di artigianato. È un lavoro di artigianato. Non c'è una cosa uguale a un'altra. Io sono qua, il mio più grande magone di venire a fare queste conferenze qua è il rapporto con la mia imperfezione, perché mi rendo conto di quanto sia difficile. Ma poi credo profondamente in questo concetto, che quello che fa di un genitore un buon genitore, da questo punto di vista, è il fatto di essere ogni giorno in pista, di provarci ogni giorno, non di essere perfetto. Perché purtroppo la perfezione da questo punto di vista è impossibile e irraggiungibile. Il controllo delle emozioni, il lavoro delle emozioni, il controllo è una parola che non mi piace tanto, ma il lavoro sulle emozioni genera benessere psicologico, la nostra vita cambia. Io intanto dico a mia moglie: se arrivasse buon Dio e mi dicesse ti faccio rivivere 2 anni della tua vita, quali vorresti rivivere? Ah, io senza dubbio questi. Senza dubbio. Questo sì. Non facciamo sentire i nostri figli in colpa per le emozioni che provano. Lasciateli sfogare. Io dopo che ho cominciato a fare questi seminari, siccome il secondo è un po' più, diciamo così, latino nel modo di esprimere le emozioni, dico: vuoi piangere? Va, mettiti lì che non ci disturbi tanto, piangi tantissimo. Piangi tutto e poi torna. Non smetti di piangere, c'è una bella differenza. Ho finito? È sequestrato dalla vita. Allora, che cosa me ne faccio di un'emozione? Questa è la parte pratica. Che cosa me ne faccio della rabbia? Qui dietro ci sono, mi piacerebbe farvi parlare con la mia psicologa, così lei potrebbe certificare la veridicità di quello che vi sto dicendo, ma anni e anni di lavoro qua dietro. Prima di tutto, che cosa me ne faccio di un'emozione? Gradino numero 1, la riconosco. La prima cosa che hanno fatto Adamo ed Eva quando sono venuti al mondo, hanno cominciato a riconoscere le cose che vedevano. Dare un nome. Le parole sono importanti. Io ho conosciuto una persona che aveva perso sua mamma e che mi diceva che la più grande sofferenza, una delle più grandi sofferenze che aveva avuto era che sua mamma si sbagliava e che quando lui si arrabbiava gli diceva: sei cattivo. Non sei cattivo, sei arrabbiato. Se sei arrabbiato, sei arrabbiato. Se sei cattivo, sei cattivo. Ognuno di noi fa il meglio che può con quello che sa. La parola sei cattivo ha un significato. Facciamo attenzione alle parole che usiamo. sei arrabbiato. Secondo gradino. Conosco i fattori scatenanti. Che cosa mi fa arrabbiare? Io ho un amico carissimo che mi fa veramente arrabbiare, ma gli voglio un bene, che è un bene fraterno. Però c'è stato un momento che gli ho detto: guarda, adesso oggi vado via, perché mi hai fatto veramente infuriare. Voglio che ci parliamo di questa cosa. No. Oggi no. Io ci tengo a dirti queste cose. Scrivile. Ti voglio bene. In questo momento non sono in grado di ascoltarti come meriteresti. Non ti darei una risposta giusta. Le accetto. Signore, accettiamo le nostre emozioni. Sono uno che si arrabbia, mi arrabbio. Sono uno che ride. Una volta un bambino mi ha detto: mio papà mi sgrida perché rido troppo forte. Io vorrei che questo papà avesse gli incubi di notte, circondato da fragorose risate due o tre volte. Questo soltanto per capire questa cosa qua. 5 minuti, 2 notti, che lo capisca e poi smettersi. Provate a pensare che cosa vuol dire un bambino che si sganascia dalla risata, che cosa c'è di più liberatorio? Ah, questo è il grande passo difficile. L'abito. Ci sto dentro. Detto da uno, fidatevi, che ha imparato a stare un po' nella paura, un pochino, è una grandissima conquista, abitare un'emozione, starci dentro. Ci sto. Adesso ci sto. È naturale. Ci sto dentro. Per quanto riguarda la rabbia, prima avete visto che c'era quel del viale alberato? Goleman dice nei suoi libri che in uno dei laboratori che fecero per capire quali potessero essere gli strumenti per far passare la rabbia, facevano prove su prove, e poi questa gente qua durante la pausa pranzo andava a camminare avanti e indietro nel viale, tornava, era rilassatissima. E quindi scoprirono che le passeggiate in mezzo agli alberi provocavano questa cosa qua. Provate a pensare alla quantità di stimoli multisensoriali che ci sono in una passeggiata in un bosco: visivo, olfattivo, come si dice, uditivo. Toglietevi le scarpe, camminate zen. Io quando scrivevo il libro, ad esempio, ho scoperto che l'acqua generava in me delle emozioni, non so, di tipo creativo. Facevo la doccia, mi veniva in mente idee, ero costantemente inchiodato su determinati capitoli, poi andavo sotto la doccia, facevo la doccia, mi rendevo conto che mi venivano 2 o 3 idee brillanti, dicevo, poi dopo lo scrivo. Uscivo dalla doccia, me l'avevo dimenticato. Allora, a un certo punto avevo messo un blocco di post-it di cuori davanti e poi li appiccicavo sulla lavagna di sughero dietro il computer e me andavo a recuperare. Dialogare con le nostre emozioni sono la parte bella della nostra vita. Sembra una stupidaggine, ma se voi vi leggete alcuni libri in cui ci sono scritti degli episodi di questo tipo, persone a cui per motivo chirurgico, insomma, patologie, incidenti o cose varie, hanno sporcato la mente, non hanno più paura. Pensate che vita terribile. Pensate, non si emozionano più. Incredibile, una roba veramente. E poi mi attrae. Io credo che le persone che hanno avuto l'idea di fare questa scuola siano particolarmente illuminate o guidate da grande spirito. Perché l'idea di attrezzarsi per essere genitori è una cosa semplicemente geniale. Perché siamo incompetenti, tutti, io mi ci metto dentro. Siamo incompetenti. Se voi pensate a quanto cambia in fretta il mondo adesso rispetto a 500 anni fa, 300 anni fa, 200 anni fa, quanto bisogno abbiamo di strumenti noi per garantire al mondo che verrà delle persone dotate di strumenti per poter abitare questo mondo in modo legittimo, in modo corretto. Mi attrezzo, è una mia responsabilità. E infine imparo a gestirla. Non le gestisco ancora tutte, Però ogni tanto glielo dico a mia moglie, dico: guarda, pensa un po' una volta per questa cosa qua come me la sarei presa. Pensa come mi sarei arrabbiato per questa cosa qua. Imparo a gestirla. Non pensate di uscire fuori di qui in 5 minuti a fare questo lavoro, Questo non vale la pena. Ogni tanto, sapete, una delle cose più belle che mi dicono le persone quando finiamo le sessioni di coaching individuale, la frase che sento di più è: ma secondo te posso farcela? abbiamo il bisogno infinito di qualcuno che arrivi come il passerotto e gli dica, c'era Mandela che lo diceva, noi dobbiamo fare in modo di far credere alla nostra gente che può vivere più intensamente e dare di più di quello che lei stessa pensa di poter dare. Questa è una frase di Mandela, un uomo che ha assistito 27 anni, mi pare, in carcere. Quindi, qual è il regalo che possiamo fare ai nostri figli? E concludiamo. Aiutarsi, aiutare, aiutarsi a divenire intelligenti emotivamente. Aiutare loro e aiutarsi noi. Questi sono i regali che possiamo fare loro. Essere autoconsapevoli. Decidere personalmente. Controllare i sentimenti, controllare lo stress, essere empatici, mettersi nei panni altrui, comunicare, essere aperti, essere perspicaci, autoaccettarsi. Allora, ogni tanto qualcuno mi dice, che cos'è l'autostima? Gli ho detto, sei mai andato a una sagra di paese? Certo, dico, l'hai mai fatto la stima del maiale? E cosa vuol dire? Vuol dire, vi rendete conto che cosa significa che noi siamo una civiltà che ha problemi di autostima? Vuol dire che siamo una civiltà di persone che non riesce a riconoscere a se stesso l'effettivo valore. Io ce l'ho, guardate, stasera discutevo con mia moglie, guardavamo la pagella e pensavo a qua, questa è la mia opinione, a quale danno può fare in un bambino ricevere un numero in prima elementare? Perché ti porta a misurarti con gli altri anziché con te stesso. Se io ho talento 5, io per la società sono prezioso, importante, buono se uso quel 5 che ho. E se io ho 3, sono buono, importante, prezioso se uso quel 3. Se io ho 10 e uso 6, non sono più bravo di uno che ha 5 e usa 5. Aiutiamo i nostri figli a riconoscere in questo la dignità dei loro sforzi. Questo è un aspetto importantissimo, la dignità dei loro sforzi e ad essere personalmente responsabili. Essere sicuri di sé. Sapere entrare nella dinamica di un gruppo. L'altro giorno una giovane psicologa mi dice la differenza che c'è tra i giovani che hanno fatto esperienza di gratuità e quelli che non l'hanno fatta è questa. Quelli che hanno fatto nella loro vita esperienza dell'associazionismo e hanno fatto esperienza di gratuità, quando lavorano portano a termine i lavori. Quelli che non hanno fatto esperienza di gratuità portano a termine l'orario di lavoro. Sapere risolvere i conflitti. Voglio chiudere con due concetti. Questa è l'idea. Ma quando noi siamo cresciuti, c'è uno studioso britannico, un collega mio di altro livello rispetto a me, ma britannico, che si chiama Ken Robinson, che dice noi dobbiamo passare da un'idea della pedagogia e dell'educazione di tipo lineare a un'idea niente meno che agricola. Quello che il nostro figlio è, ci ha già pensato con Dio, Madre Natura o chi per esso. Noi dobbiamo soltanto lavorare il terreno che c'è lì intorno e aiutarlo a divenire quello che lui è. Quando noi facciamo questi sforzi, con tutte le attenzioni di cui abbiamo parlato, un bambino si sentirà amato, e quando un bambino si sente amato non avrà bisogno di fare un gran fracasso per dire che c'è. Il mio augurio è che ciascuno di voi possa fare il proprio salto fuori dallo stagno e scoprire tutte le cose in cui è una rana e non un pesce. Grazie.